Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. YouTube Social Network. La seconda ora del nostro Radio Tube, dopo una prima ora in cui abbiamo avuto un sacco di ospiti, abbiamo avuto Roby Facchinetti, abbiamo avuto Renato Zero, abbiamo parlato di Giuseppe Verdi, perché abbiamo parlato del Festival Verdi che è in corso a Parma. Ho una voglia di fuggire a Parma, di andare a fare un giro a Parma, e poi anche della Fondazione Orchestra Verdi di Milano, che sta facendo delle cose estremamente divertenti. E alla fine abbiamo dato spazio a questo talk show molto particolare che si chiama Paese Reale, condotto da Edoardo Ferrario, che fa anche tutti gli ospiti, quindi è un one man show che si trova su Rai Play e che mi è piaciuto molto segnalare, perché sono delle cose nuove che si vedono in televisione. In televisione si vedono anche cose molto nuove, ne parleremo, ma anche cose molto vecchie, anche delle polemiche. Qualche istante fa, 349-238-6666, un ascoltatore molto arrabbiato mi ha scritto: ma di quali polemiche televisive vuoi parlare, gallina, con le lettere maiuscole ma anche quattro piccole emoji di galline? E quindi io apprezzo le emoji delle galline, mi prendo l'insulto perché lo trovo carino per via degli animaletti che hai messo, anche se volevi essere cattivo. Non importa. Allora, parleremo di polemiche, parleremo di gente che si indigna, che invia insulti, che si indigna anche senza aver visto un film, un programma televisivo. Abbiamo un sacco di argomenti, non so se ce la faremo in un'ora sola, e ne parliamo col co-conduttore d'eccezione Mattia Carzaniga. Ciao Mattia. Ciao Marta, sempre un piacere. Gallina anch'io. E poi galline non ancora vecchie, ma cominciamo a fare un brodo di discreta qualità. Abbastanza, sì. Cominciamo avere idiosincrasie. Urca, lo dicevamo prima, ma quanto perdo la pazienza in questo periodo. Moltissimo. Mattia Carzaniga, che leggiamo su Rolling Stone, su Vanity Fair, su Donna Moderna, in particolare su Rolling Stone in questo periodo molto trendy, molto. Mi piace, molto molto moderno. Allora, polemiche televisive, qui cominciamo subito con uno di quegli argomenti che scaldano gli animi, anzi, fammela dire, che infiammano il popolo del web, come si legge sui giornali, un'altra espressione. Ma esiste ancora il popolo del web? Ma non lo so. Mai esistito il popolo del web? Sì. Comunque, cosa è successo? A Di Martedì sulla 7 erano ospiti Concita De Gregorio, il direttore del giornale Alessandro Sallusti, in un dibattito con Michele Emiliano. Cosa è successo? È successo questo. Io non sono d'accordo con Concita perché... Però insomma, Sallusti, qualcuno scusi, gli deve indicare mi chiama questi per nome candidati e io la della chiamo politica. Per cognome. Mi scusi Sallusti, io la chiamo sempre per cognome. Mi scusi, dottoressa. No, non ma, sono ma d'accordo basterebbe con la anche il cognome. Mi basterebbe anche, non sono d'accordo con De Gregorio. No, cara professoressa, non voglio il titolo, mi dimenticavo che voglio essendo il cognome. Io non mi chiamo non Maurizio, Federico, Filippo, non puoi Matteo, con l'ignorante. No? Ma no, dottoressa, le chiedo guarda, scusa. È un, no, mi scusi, dottoressa. No, non la buttare. Non era, allora, non la buttare cosa diciamo? Io sono un po' combattuta perché effettivamente io dico: perché chiami tutti per cognome e lei per nome? Però è il caso di farne una polemica sempre ogni volta? Come e troviamo? Soprattutto ci chiamiamo tutti Concita perché c'è un brand di mezzo, Concita quello, De Gregorio, Concita. Siamo tutti d'accordo sul fatto che c'è un diverso trattamento dei nomi e cognomi, insomma, per capirci, ma Concita De Gregorio sul nome Concita, che è un nome anche fortemente connotante, ma perché è un nome insolito, è un nome molto bello, ci ha costruito, ripeto, un brand, tanto che, se non ricordo male, tutte le sue rubriche o quasi hanno avuto Concita nel nome. Quindi l'ultima mi pare che sia Invece Concita. Invece Concita, la cosa che mi diverte di tutto questo teatrino è che però si danno del tu, quindi ci chiamiamo per cognome però ci diamo del tu, quindi è una sensazione un po' distonica in questo. Posso dirti una cosa? Io poi non conosco di persona né lui né lei, quindi non è una cosa io. Che io... Però secondo me poi quando parte la pubblicità o finisce la trasmissione poi in realtà vanno a bere il caffè insieme, cioè... In realtà secondo me davvero queste persone si conoscono ed è anche un po' il format del talk show che deve tirare fuori questa cosa. Sai qual è un po' il tema? Tu parlavi di TV vecchia, TV nuova, qua al di là del vecchio e del nuovo sono un po' sempre le stesse persone in questi contesti di talk, di insomma, ospitate, di infotainment come si dice, e quindi dopo un po' bisogna anche, un po' ci si annoia a vedere sempre le stesse persone, un po' bisogna così... far girare le carte, risparigliare un po' le carte. Quindi e poi forse sai questo. Che se fai una scena del genere, una scenetta del genere, fai una scena, sembrava intendessi dire qualcos'altro, un siparietto del genere, poi finisce sui giornali online perché viene estrapolata la clip, se ne parla. Sai qual è la cosa? Possiamo fare già iniziare a fare i Matusa. Dai, sì, che a me sì, viene facciamo da dire, i boomer, Ettore Boomeroni. Nessuno saprà mai di fronte a queste cose di cosa parlavano Sallusti e De Gregorio, che cosa si stavano dicendo, qual era il punto, al di là della scenetta, del tema caldo da servire al popolo del web. Poi insomma ci si riduce agli sketch che ci siamo anche un po' stufati di guardare, perché poi tutti apriamo i quotidiani e ci sarà ovunque lo scambio De Gregorio Sallusti e ancora ci clicchiamo sopra, forse molti sì, io ho un po' smesso da tempo perché questo succede e non può che essere quello che ci aspettiamo e per cui forse non riusciamo neanche più a indignarci perché l'abbiamo visto e rivisto, è un disco più che però rotto. Il fatto che lo troviamo ancora sul famoso colonnino destro significa che ancora il ditino ci va sopra, sì, a cliccarlo, sì. Certi siparietti sono costruiti, questo non credo, ma certi sicuramente non sono voluti, ed è ad esempio il caso di questo che è successo a Carta Bianca, Mauro Corona, Bianca Berlinguer. Adesso non possiamo parlare di questo albergo perché è pubblicità e noi non possiamo fare pubblicità allora, in televisione. Volevo chiedere... Ah, senta Bianchina, se lei mi vuole qui tutta la stagione, sì, mi fa dire le cose. Non posso farle fare pubblicità ad alberghi, diciamo, rispetto ad altri. La mando in malora. Allora, e me Mauro ne vado. Corona, faccia quello che vuole, non può fare pubblicità ad alberghi. Non può fare pubblicità ad alberghi. Questo è stato detto chiaramente. Volevo chiedere scusa, ma stia zitta una buona volta, gallina. No, io sto zitta perché lei nella mia trasmissione... Eccola qua, anche lei gallina, siamo tutte galline. Tutte galline. Poi Mauro Corona ha chiesto scusa, ha detto chiedo scusa, sono nervoso, non tocco alcol da 40 giorni. Lo ha detto Daria Bignardi. Allora... effettivamente però quando tu hai un ospite del genere questo è l'unico momento, tra l'altro non ci ho cliccato io perché ho smesso di cliccare, ma il mio compagno ha fatto click su questo video sì, gli e è scappato il ditino, mi sembrava Cacciari e ho pensato ma cosa gli è saltato in mente a Cacciari di dare della gallina Bianca Berlinguer, quando ho scoperto che trattavasi di Mauro Corona quello che dici tu, come invitare Sgarbi nel salotto buono, lo inviti anche perché sai che fa un po' di baccano e piace così e finirà sul colonnino destro e se ne parlerà un po', insomma sappiamo chi invitare a cena e se vogliamo anche un po' di casino a tavola sappiamo bene chi quando chiamare. Ancora potevamo fare quelle cene con un po' di persone sapevi già che a un certo punto qualcuno avrebbe fatto così un po' di appunto comunque show. Dobbiamo lanciare il trend gallina lanciato il trend gallina io ci sono, poi la gallina fa l'uovo. Quando poi diventa un po' anziana fa il brodo, ma quante cose, ma no, team gallina assolutamente, sono favorevolevolissima al poi c'era stato un divorzio di mezzo, Corona Berlinguer, poi un ritorno, sì, è ovvio sì, che queste relazioni anche così televisive di... C'è della passione, c'è dell'intensità. Sì, si vede, cioè sì, poi si esprime. Secondo me non è finita qua, secondo me ci saranno... tornerà. Le seguiremo, ci cliccheremo, sì, sì, a questo punto sì, dai, ci cliccheremo. Allora, tra poco parliamo di altre storie televisive, perché i social sono travolti da quello che è successo in alcune trasmissioni in questi giorni, forse ancora più travolti i social di quanto siano stati dati d'ascolto, ma succede spesso così. Viabilità, e poi saremo ancora insieme con RadioTube. Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. Vi presento. RadioTube Social Network. Intanto stanno arrivando un sacco di giochi di parole sulle galline, su WhatsApp. Poi, poi c'è sempre il mio solito fan che questa volta dice ruffiana. Però era più carino gallina, mi piaceva di più gallina. Un po' di tempo fa, Mattia, c'era Carlo Freccero che aveva enunciato questa legge secondo cui una trasmissione che faceva grande successo sui social e soprattutto su Twitter non andava bene negli ascolti. Ma mi sembra la legge Freccero è intatta. Cioè, è intatta? Sì, non va discussa, non serve referendum per la legge Freccero. Perché effettivamente ci sono trasmissioni di cui insomma si parla, hashtag, thread infiniti, e poi in realtà non sbancano l'audit. Il popolo del web, non so se esiste, se è mai esistito, la bolla però esiste, e come, e nella bolla accadono cose che, come diceva il Fight Club, restano nella bolla. Sì, è una sorta di circolo impermeabile di persone che parlano tanto di un argomento e che inevitabilmente poi coinvolgono magari degli account con tantissimi follower, e sembra che diventi un discorso universale, appunto ne parlano i giornali. Il famoso tutti ne parlano. Tutti ne parlano, e poi però in realtà gli ascolti non sono brillantissimi. Adesso non voglio dire che il Grande Fratello VIP sia un flop, perché abbiamo visto anche gli ascolti di ieri sera, ha perso contro tale quale show, però lo fanno due sere la settimana, insomma ci sono tante caratteristiche per cui io non definirei una trasmissione, non lo definirei un flop. Certo è che per quanto se ne parla dovrebbe fare il 50% di ascolti, cioè anche sui giornali, anche sui quotidiani online seri, viene sempre fuori la polemica del Grande Fratello VIP quest'anno. Ma un po' come dici tu, vanno in onda sempre. Io che non ho la TV, ma non per vezzo, perché la uso solo per passarci Netflix, le piattaforme, ma non l'ho attaccato, cioè non ho davvero la TV, resto un po' impermeabile, come dicevi prima, a certi fenomeni, se non che ogni tanto vengono fuori. E ieri sera il Grande Fratello, dopo due giorni, ieri sera il Grande Fratello, allora, dopo un po' ti incuriosisci, che sembra il giorno della marmotta. Ma infatti anche il nostro Alessandro Schirano in redazione oggi mi ha detto: ah, ma ho scoperto cos'è questa cosa dell'Ares Gate di cui tutti parlano, non guardando il Grande Fratello sento che tutti parlano di questa cosa e voglio capire cos'è. Allora uno si incuriosisce, va a vedere i video, ma a me, che guarda, ci sono dappertutto. È successo dappertutto. Abbastanza, non per mitomania, ma un amico di Rivista Studio, che è un giornale bellissimo, con cui collaboro, mi scrive in piedi all'inizio di questo Ares Gate: ah, che ridere, il tuo pezzo su Teodosio Losito, che scrissi quando morì il povero buon Losito, sì, sta andando fortissimo. E perché, mi domandai io pochi giorni fa, e lì scoprì il famoso video, e ci ho cliccato sopra, poi alla in fine, cui scoppiava al GF l'Ares Gate. Ma altrimenti forse non avrei, cioè, viviamo in una bolla lontana da certi fenomeni. Allora, per capire un po' di cosa stiamo parlando, perché poi magari a cena, all'aperitivo, qualcuno lo tirerà fuori e voi sarete preparatissimi, perché se non l'avete cliccato lo saprete da noi. Sentiamo un pezzettino di una cosa che è successa ieri sera. Adua. Rosalinda, tu non mi hai mai chiamato Dario, vero? No. È un suono che ho cancellato, un ragazzo che ho ucciso, e la voglio riportare in vita. Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola. Bella. Sì, ma una favola. Gabriel Garco, io credo alla sua sincerità al 100%, perché dovrebbe essere un attore veramente straordinario in questo ruolo che ha ricoperto ieri sera, e sappiamo che è un attore volenteroso. E qua io ti fermo perché sono un grande fan delle fiction di Losito. L'onore e il rispetto, il peccato e la vergogna, e Garco era un gigante lì dentro, mettiamola così, in quel universo era un gigante, quindi però ti seguo su quello che vuoi e stai per dire. Allora, ieri sera al Grande Fratello VIP è entrato nella casa, mi sento molto Barbara D'Urso dire nella casa, Gabriel Garco, perché è stato tirato in ballo questo presunto scandalo nelle conversazioni, peraltro notturne, tra due concorrenti della casa, Adua Del Vesco, lui infatti si rivolge a lei, Adua, e Massimiliano Morra, ex fidanzati. Adua Del Vesco, ex fidanzata di Gabriel Garco. E fino a qua sembra gossip becero, e qualcuno dirà: ma perché parlate di queste cose? Ma perché c'è sotto molto di più? Intanto ieri sera c'è stato questo momento di televisione che a me alla fine ha fatto tenerezza, mi ha fatto commuovere, non lo so, con Gabriel Garco. Per noi che abbiamo una certa età, vedere queste cose, il vivo delle fiction che fa questo, si può parlare di coming out. Senza dire mai sono gay, sono omosessuale, dice... Era un segreto di Pulcinella, lo sapevamo tutti che questa storia d'amore con Adua Del Vesco era assolutamente una storia costruita. La cosa che già rende meraviglioso, nella clip passata prima si sentiva: noi Dario e Rosalinda, ma ci chiamiamo Gabriel e Adua, già quello è magnifico. E fino a qua è tutto poetico. Poi però cosa succede? Succede che sotto c'è una storia brutta che rischia di riempire poi delle pagine di cronaca, se non addirittura... Secondo me potrebbe anche arrivare in sedi giudiziarie, perché nella puntata di ieri Gabriel Garco appunto ha fatto questo mezzo coming out, perché poi lo farà verissimo ovviamente, dicendo: la nostra storia era tutta una finta, ma in realtà alle spalle di questa storia c'è l'ombra di uno scandalo anche piuttosto grave. Sì, era la seconda puntata di un'altra fiction in corso, cominciata nella casa del Grande Fratello, come dicevi tu, tra Adua e Massimiliano Morra, che parlano di tale Lucifero. Così si rivolgono a questa figura, che secondo i commentatori potrebbe essere Alberto Tarallo, produttore e presidente, credo fosse, della Ares Film, che era la casa di produzione che produceva le fiction tutte di grande fiction. Successo, non al rispetto, e che non sarebbe solo stato il produttore, ma che avrebbe proprio creato una sorta di mondo parallelo in cui tutti questi attori dovevano cambiare il nome, non rivelare la loro verità, inscenare delle storie d'amore finte. Allora, il problema è che qua già dal gossip ci spostiamo in un terreno un po' più scivoloso. Addirittura Adua Del Vesco ha parlato, cioè ha fatto delle accuse anche piuttosto gravi e clamorose, perché parlando di Teodosio Losito, che io ricorderò sempre come cantante amato da noi ragazzine, Ma chi gatto me l'ha fatto fare, cantava Sanremo, era bellissimo Teo, che purtroppo si è tolto la vita un anno e mezzo fa, Adua Del Vesco ha parlato di istigazione al suicidio. Quindi Canale 5 sta veleggiando tra il gossip, anche divertente, anche gioioso, perché tutto sommato un coming out a quasi 50 anni di un attore che l'ha tenuto nascosto, malamente nascosto, per tutta la vita, è una cosa anche gioiosa. Il gossip fidanzato vero, fidanzato finto, è una cosa leggera. E sotto però c'è un mistero anche difficile, secondo me, da gestire da parte loro, perché rischi veramente di toccare delle persone e di accusarle di reati mica leggeri. Il mio commento che mi viene da fare, cioè appunto anche questi giorni pensando a questa cosa e vedendo molto poco in realtà del Grande Fratello, del se non appunto le famose clip, da un lato sono tutte supposizioni, per cui non c'è nulla di, cioè si presume che la figura sia questo produttore, che dietro ci sia questo. La cosa divertente è, da un lato, si parla molto di distopia, sembra la MGM della Hollywood degli anni d'oro, dove davvero venivano insabbiate le storie, le vite private degli attori, erano costretti a nascondersi, come racconta Ryan Murphy nella serie Hollywood su Netflix, bene o male, con questa svolta politicamente corretta, però insomma quel mondo lì, questa stucchevolina svolta. Dall'altro, nel racconto che è appena iniziato e che sicuramente accennavi a Verissimo la prossima settimana, andrà avanti per settimane, per mesi, mi sembra un nuovo Pamela Pratigate, cioè una nuova storia con implicazioni probabilmente più pesanti che Mediaset, giustamente, anche in termini di diffusione di notizie, di immaginario anche, certo. Perché poi quello, davvero, al di là delle battute di Losito, delle fiction con Garco, Arcuri, eccetera, è stato un grosso immaginario popolare che piaceva anche alla bolla, perché tutta quella dimensione del kitsch, racconto del kitsch, che usava poi proprio i codici del melodramma classico, del racconto così per signorine, ma non solo, piaceva molto anche agli intellettuali cosiddetti. Quindi è davvero un ritorno di un universo che, insomma, vedremo come verrà cavalcato da un punto di vista di racconto anche televisivo. Chi non seguisse il Grande Fratello VIP e chi non avesse nessun interesse nei confronti del Grande Fratello VIP adesso sa di cosa si parla quando vedrà e si vede dappertutto questo hashtag Aresgate. Ultima cosa, finalmente nella casa del Grande Fratello VIP è entrato un vero VIP, tra l'altro, perché non li conosce mai nessuno, invece almeno Gabriel Garco. Beh, qualcuno ci c'è, leggi dai, sotto questa... Grande Fratello VIP e insomma c'è una motivazione. Dai, qualcuno c'è. Sicuramente è un VIP Fausto Leali. Il significato delle parole evolve nel corso del tempo, nel corso degli anni. La parola negro era una parola comunemente usata negli anni 40, negli anni 50, nell'Italia dei Vatussi. Perfino Giosuè Carducci la usò nelle sue poesie. Tu stesso in Angeli Negri l'hai usata senza alcuna connotazione razzista. Oggi il significato di questa parola, Fausto, è profondamente cambiato. Va bene. Fausto Leali, già ride Mattia, Fausto Leali espulso dal Grande Fratello VIP, anche qui, no? Giornali pieni, giornali online pieni del video da cliccare di Fausto Leali. Io... No, ridevo perché la postmodernità è sempre troppa e Carducci con Fausto Leali. Dovete darci tregua. Allora, posto che è una parola che non si usa più e non si deve usare, io credo che almeno su quella parola lì Fausto Leali abbia peccato un po' di anzianità. Cioè è stato un po'... Io ci credo che lui non sia razzista, insomma ha sbagliato un po' per, non voglio dire ignoranza perché non voglio dire che è un uomo ignorante, però non è proprio nel 2020, in ecco, quanto diciamo così. Vecchie galline, ormai possiamo dirlo, amanti del Novecento, ci sono però anche dei tic del Novecento che possiamo toglierci, ecco, non fa male a nessuno. Forse bisognava dirgli, Fausto, guarda, nel 2020 ti crediamo, però non si dice più. Per il resto, su quel fatto che Mussolini faceva arrivare i treni in orario o ha detto più o meno quella roba lì, vabbè, ecco, diciamo un filino più discutibile. Però d'altronde, se metti le persone chiuse in una casa e le lasci, cioè... È il discorso di prima dei salotti televisivi, più salotto della casa del Gran Fratello non c'è e quindi a un certo punto si sbraca. L'incidente scappa E quindi niente, ha fatto questa, non so neanche se definirla una gaffe, però l'ha pagato con l'espulsione. Soprattutto a me è spiaciuto perché aveva l'aria di quello che non aveva del tutto capito perché era stato escluso. Vabbè, però alla fine hanno fatto bene. E comunque ci troviamo ancora a parlare di Grande Fratello e forse è bellissimo così, che ma tutto, certo, sia fermo. Ma certo. Di talk televisivi con gli stessi ospiti di sempre, di Grande Fratello, sì. Dove appunto la notizia la fa ancora Gabriel Garco, per cui con tutto il bello di questa scena commovente, però sempre di Gabriel Garco parliamo, che non è esattamente un nome della stretta contemporaneità. Fausto Leali, con tutto il bene, non ne parliamo ancora neanche. Ancora un filo meno contemporaneo. Forse è bellissimo così, ecco. Sì, sì, devo dire che comunque sulle home page dei quotidiani ci sono ovviamente tutti questi bei video. Vi abbiamo fatto un bigino di una settimana di polemiche televisive in pochi minuti. Tra poco invece parliamo di moda. Sono successe delle cose interessanti, succederanno delle cose interessanti e parliamo anche di influencer. Tra poco. Radio Tube Social Network. Eccoci ancora insieme con questo Radio Tube Social Network, con il nostro co-conduttore d'eccezione Mattia Carzaniga. Vabbè, lo vedete su Rolling Stone, su Donna Moderna, su Vanity Fair. Abbiamo parlato un po' di gossip e un po' di televisione. C'è qualcuno, Mattia, che ha scritto: io non guardo mai la TV, perché ne parlate alla radio? Proprio perché c'è gente che non guarda la TV. Anch'io guardo pochissima TV, però. Ma no, è che questo è caso TV, è finito, insomma, sui giornali, è finito sui social. E proprio chi non guarda la TV non capisce perché stanno parlando tutti di questo argomento. Oddio, tutti, ovviamente. I giornali, se aprite i siti, se da Gospia fa l'apertura da 3 giorni del sito, ma anche giornali generalisti, siti web hanno tutti nel colonnino di destra quello che ha detto Fausto Leali, quello che ha detto Gabriel Garco, perché abbiamo spiegato qual è il caso che c'è sotto, anche se poi è un caso un po' misterioso. E poi volevo leggerti un altro messaggio che è arrivato via WhatsApp al 349-238-666. L'ho detto giusto, 349-238-6666. Un paese in cui fa notizia la sessualità diversa di chi che sia è un paese medievale. Mattia, ma fa notizia la sessualità di Gabriel Garco, che lui stesso ha definito un segreto di Pulcinella, o il fatto che abbia fatto coming out? Ma io penso faccia notizia in positivo che sempre più personaggi in vista, noti, si liberino di segreti di Pulcinella, e che non è diverso, non diversa, che chi vuole parlarne si senta libero di farlo. La notizia è che una persona, un personaggio pubblico e noto, abbia fatto coming out, non il fatto che fosse omosessuale, che era cosa appunto abbastanza nota, e che soprattutto forse lui adesso dirà, con questo cliffhanger, con questo questa suspense, dirà perché ha dovuto tenerla nascosta. E quindi secondo me si ritornerà a questo scandalo di cui parlavamo, di cui si parlerà ancora moltissimo. Noi magari non ne parleremo di più a Radio Tube, perché vi abbiamo semplicemente dato le chiavi di lettura di un qualcosa di cui si parla sui giornali, per spiegarlo all'ascoltatore che dice che non guarda la TV e quindi non capisce perché ne parliamo alla radio. Ma parliamo anche di moda, perché magari non guarda le sfilate l'ascoltatore, ma è successa una cosa nuova. Eccola qua. I'm a 10-year-old girl. I love fashion design. I want to be a fashion designer. What advice would you recommend to keep me on my path? Then is my moment to say study, study, study, learn. Watch movies. Allora, Miuccia Prada, Ralph Simons. Che saluto, perché è una mia vicina di casa. Dai, abitando vicino alla che Fondazione chic. Prada. Io che chic. Mi illudo di essere vicinissimo a pochissimi gradi di separazione dalla da signora Miuccia. Vedi la colonna dorata, la grande la torre dorata. Una cosa interessante, perché la moda fortino, lontano, inaccessibile, che potevamo vedere solo sulle riviste con la carta super patinata, e è diventato in questi giorni qualcosa di molto più vicino. Non solo le sfilate in streaming, alle quali eravamo già abituati da un pochino di tempo, ma Miuccia Prada e il direttore creativo Ralph Simons hanno risposto in streaming a delle domande. Qui sentivamo: sono una ragazzina di 10 anni, voglio fare la moda. Ci bastava la notizia della prima collezione, non solo di Miuccia Prada, perché Ralph Simons entra ora e hanno presentato insieme la prima collezione co-firmata, mentre prima la signora Miuccia Prada era da sola, insomma, a gestire il marchio come designer. Quindi già ci bastava quello. Invece tu parlavi di inaccessibilità, la signora Miuccia è una che dà pochissime interviste, che si fa vedere molto poco. Vederla in un Q&A cosiddetto in streaming, all'inizio lei stessa sembrava un po' scocciata, tipo che mi tocca fare in quest'epoca dei social. E poi secondo me, tra le domande, abbiamo sentito prima quella della ragazzina che chiede cosa devo fare per diventare una designer, e la risposta di Miuccia Prada è favolosa: studia, guarda film, impara, leggi. E mi sembra un messaggio, io vorrei una maglietta da mettermi, visto che sono un po' Matusa, come diciamo prima, study, perché la gente anche secondo me non ha studiato. E fa tanti mestieri, dalla politica al nostro, di giornalisti, in cui insomma un po' di studio male non farebbe. E anche nella moda, perché non è un mondo di frivolezza e di lustrini, ma anche un mondo di arte, di industria, di insomma tante cose, non dobbiamo spiegarle qua. E quindi alla fine anche Miuccia Prada, secondo me, in questa modalità social si è molto divertita, e la chiacchierata con Raf Simos è stata molto anche illuminante su alcuni processi della moda, processi creativi, processi industriali, processi anche culturali. A proposito di study, io cito sempre il mio idraulico, che quando rifeci gli caloriferi del bagno mi propose una cosa particolarmente avveniristica. Gli dissi: ma ci sono queste cose, e lui mi guardò giustamente con un certo disprezzo e mi disse: signora, l'idraulica si evolve lentamente, ma si evolve. Aveva ragione, perché ogni categoria ha il suo stadi, la moda tradizionale, che adesso si avvicina allo streaming, apre un po' le sue frontiere, ma mi vengono in mente anche gli influencer. È stato un periodo complicato per gli influencer, quello del lockdown, perché una professione che faceva anche del trovare location, fotografarsi in luoghi particolari con abiti particolari o magari con del cibo particolare a seconda della propria specializzazione, si è trovata chiusa in casa. Non deve essere stato facile. Il riferimento, il modello unico e possibile è sempre Chiara Ferragni, lungi da me definirla influencer, non mi permetterei mai. Imprenditrice digitale. Lo sappiamo che l'imprenditrice è quotata in borsa, peraltro, certo. Quindi non, ma davvero fuori di battuta, però insomma come riferimento a cui molti influencer guardano, Chiara Ferragni non poteva fare viaggi, andare alle sfilate, e si è messa a passare il detergente dei vetri sullo specchio del bagno, e va bene così. Tra l'altro lei, che insomma è maestra ed è bravissima in questo, è molto credibile sia vestita Dior sia a spruzzare il detersivo dello specchio. Sì, quindi, insomma, lei mi convince di qualsiasi cosa. Mettiamola così: gli influencer che erano un po' gli scrocconi dei weekend negli alberghi, forse hanno fatto fatica e forse hanno dimostrato di tutto questo famoso storytelling che pensavano di traghettare, di veicolare, di non averlo. Perché. Allora facciamo una cosa, una brevissima pausa, chiedo ancora un attimo di pazienza al nostro ospite che sto facendo aspettare moltissimo, perché parliamo tra poco in particolare di food e di travel influencers, perché un po' di numeri, un po' di studi ci sono, c'è uno studio in particolare che mi ha incuriosito molto, ne parliamo tra pochissimo. Radio Tube Social Network. Eccoci ancora insieme con il nostro Radio Tube, con il nostro conduttore d'eccezione Mattia Carzaniga. Ascoltando la radio si allena il cervello, guardando la TV si rovina la vista, il fegato, dipende. Secondo me bisogna scegliere la radio giusta, ovviamente, e guardare tutto con occhio critico. Ma poi tutte queste certezze nella vita, ma chi lo può sapere? Io non ne ho neanche una proprio. E più invecchio, meno ne ho. Ma figuriamoci. Mamma mia. Allora, abbiamo parlato di influencer in un periodo difficile, in particolare il periodo maggio-agosto del 2019 e del 2020. L'azienda specializzata in web e social media Data Intelligence Extreme ha analizzato un po' cosa è successo tra gli influencer di cibo e di viaggi, travel e food influencer. Ne parliamo col CEO di Extreme, Riccardo Di Marcantonio. Buonasera Riccardo. Buonasera Marta, buonasera Mattia. Buonasera. Grazie Riccardo, e grazie anche per la pazienza, ci siamo persi in chiacchiere qua oggi, no, veramente parliamo come i matti. Un sacco di cose interessanti. Ma perché noi poi ci lasciamo trasportare. Riccardo, effettivamente è stato un periodo che ha cambiato la vita di tutti noi, ma per chi fa quel lavoro, perché fare l'influencer era un lavoro, noi continuiamo a ripeterlo, perché non è che lo possono fare proprio tutti, che cosa è successo? È successo quello che è successo per tutti noi, ovviamente per chi vive, no, di contatti, di comunicazione, di viaggi, di condivisioni, sicuramente il periodo del lockdown è stato dannoso parecchio. Noi abbiamo realizzato questo studio, questa ricerca, mettendo a confronto proprio per vedere un po', cercare di misurare, noi siamo un po' maniaci dei numeri, no? Di misurare quali fossero le differenze tra maggio-agosto 2019, quindi in epoca pre-Covid, e invece maggio-agosto 2020, e quindi in piena pandemia e lockdown. Abbiamo preso a riferimento appunto i dati di un panel di circa 600 influencer italiani, e travel e food, no? Per capire come i due settori avessero reagito. Ed effettivamente, diciamo, qualcosa è cambiato, ci sono state, diciamo, delle variazioni importanti, soprattutto, come è facilmente immaginabile, chi ne ha risentito di più è stato proprio il settore del travel, che ha visto, certo, un crollo significativo un po' di tutti gli indicatori, di tutti i numeri, mentre invece il mondo del food, mentre essendo tutti noi a casa ad impastare, a fare pizze, pane e pasta, si ha visto invece un momento, diciamo, di grande celebrità e anche di grande Riccardo crescita. Io sto guardando Mattia, perché tu e tuo marito, cioè, quanto impastavate? Io, persino io che non sono influencer, ho fatto una diretta dell'impasto, perché sì, la gente me lo... Ecco. Perché non sapete in tanti me l'avete chiesto. Facevi, e allora fa una diretta le di impasto pizza. Sì, sì, sì, era questo, diventato sempre, influencer. Questo anche pre-lockdown. Poi lì ci siamo un po' più, come dire, l'abbiamo più esibita questa... Pazzesco. Mi è diventato un food influencer anche Mattia. Quindi, Riccardo, più cibo, meno viaggi. Però devo dire una cosa che mi ha incuriosito è anche questo viaggi quasi travel blogger a chilometro zero. Sì, sì, perché ovviamente, diciamo, quelli che hanno resistito, quelli che hanno continuato a fare, no, il loro mestiere, ovviamente non potendo girare, si sono rivolti un po' al nostro paese. Loro abituati a fare sempre questi fantastici viaggi, no, esotici in giro per il mondo, e hanno guardato al nostro territorio, no? E quindi anche lì abbiamo cercato di capire alla fine quale fosse, diciamo, la regione italiana che in qualche modo ha avuto maggiore attenzione da parte di questi travel influencer, no? E quindi abbiamo scoperto che al primo posto abbiamo la Toscana in termini di post, diciamo, pubblicati, e poi abbiamo il Lazio, le Marche, il Veneto, la Sicilia, la Lombardia, la Puglia e la Campania, e poi, diciamo, tutto il resto, no? Quindi... io terzo, Marche terzo posto, quindi io ho non sono influencer, ho instagrammato le Marche. Posso farti una domanda, Riccardo? Prima scherzavo sul fatto che, appunto, non potendo viaggiare erano costretti a stare a casa, insomma, i cosiddetti, certo, travel influencer. Appena, insomma, riaperti i confini anche regionali, molti alberghi più vicini, parlo un po' del bacino milanese, Lago di Como, Liguria, hanno invitato un po' di questi travel influencer per dei weekend, e lo si è visto dai post, dalle storie. Giova a chi lo fa, alle strutture, da un punto di vista di immagine, di pubblicità, c'è un riscontro reale, oppure, insomma, come funziona? Perché mi incuriosisce sempre poi il rapporto reale, diciamo, paga, cioè, ecco, paga una cosa del genere. Questa, diciamo, è la domanda delle domande, no? È la grande domanda, è un po' come chiedere se paga fare la pubblicità, no? Cioè, è difficile poi mettere in correlazione il fatturato con il fatto che effettivamente ho fatto delle attività. Sicuramente paga, perché poi comunque ci sono personaggi al di là dei top influencer, quindi escludendo Chiara Ferragni, che, appunto, sono d'accordo con voi, non è un influencer, no, è un'altra cosa, è un'azienda, quasi una multinazionale. Però ci sono, diciamo, personaggi che hanno 50, 100, 200 mila follower e quindi sicuramente in qualche modo paga il fatto che queste persone visualizzino post, commenti, storie e così via. E forse è un po' sopravvalutata questa cosa, e soprattutto è un po' una moda, e ci sono tantissimi personaggi che cercano di fare gli influencer, e la difficoltà sta nel scegliere quelli effettivamente capaci e efficaci. Questo è un po' il lavoro. Se voi andate in qualsiasi fiera del turismo in questo momento, no, ci sono file di ragazzi con il curriculum in mano che si candidano come influencer. Questo è interessante. Come si fa il curriculum? Sarei curiosa anche di questo. Riccardo, dobbiamo sentirci di nuovo, perché voglio anche sapere se si può fare il curriculum da influencer. Perché io tutto sommato l'influencer di cibo, la macchina di viaggi. Io un video della pizza ce l'ho, l'ho salvata. La diretta l'ho salvata sul telefono. Lo metti in... Allora, torniamo a chiamare Riccardo Di Marcantonio, CEO di Xtreme, perché queste analisi sono davvero curiose, perché davvero i numeri ci aiutano un po' a capire questo mondo, che ancora così capiamo con un po' di vaghezza. Per tanti l'influencer non è ancora un lavoro, e invece lo è, e richiede davvero tante qualità, è un mondo molto serio che non dobbiamo prendere sotto gamba. Grazie Riccardo Di Marcantonio, CEO di Xtreme. Allora, la prossima volta ti richiamiamo di nuovo. Va bene? Grazie Riccardo, grazie mille. Abbiamo ancora 2 minuti, voglio fare l'ultimo momento di indignazione, va bene? Allora, ultimo momento di indignazione, questo video è stato pubblicato oggi da Repubblica TV. È arrivato lo spartito del tema del film, e lo sono per la prima volta al pianoforte, ma insomma, vediamo che viene fuori. Enrico Vanzina che esegue il pianoforte, come tutti i ragazzi di buona famiglia suona bene il pianoforte. Il tema di Lockdown all'italiana, il film che uscirà tra un mesetto, un po' meno, il 15 ottobre, e che ha già creato un sacco di polemiche solo per la locandina. Io mi sono arrabbiata perché dico, guardiamolo, se poi non ci piace lo stronchiamo, ma prima... Io non potrei dichiararlo in diretta nazionale, ma sono così indignato dall'indignazione, sì, che il film l'ho visto e non se ne riparlerà film? Perché è tutto fuorché primo cinepanettone, perché poi è girata la cosa alla locandina del cinepanettone. Non è un cinepanettone, anche perché non so quando voi mangiate il panettone, ma esce il 15 di ottobre. E poi quindi... i cinepanettoni li dirigeva Neri Parenti, no, e non li hanno fatti mai. Bravissima. E poi con un tema così dolce, peraltro, di Umberto Smaila, parlando Umberto di Novecento. Un tema musicale così dolce suonato da Enrico Vanzina, noi lo stimiamo molto. Poi davvero, se il film è brutto, io non l'ho ancora visto, se il film è brutto lo stronco, ve lo prometto, però per ora no. Perché ci non rivediamo ancora visto. Per parlarne? Dai, allora, appuntamento con Mattia Carzariga quando esce il film. Molto grazie volentieri, Mattia, di essere grazie stato a te, Marta, con noi. Come sempre. Devo ringraziare moltissimo Gianmarco Ferronato in regia, Alessandro Schirano in redazione. Ci sentiamo domani mattina con Radio Tube in intervista, dopo il GR24 delle 7 e ancora in diretta sabato prossimo alle 16. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it